che non si vedevano nemmeno, erano minuscole come quelle del coso, dell'attacco del microfono, quella più piccola che c'è, così erano tutte qua. E si vende già qui. Paga. E Gianluca dove è andato? Ha deciso di andare a buttare. E io vabbè, fatto. Su vane, no? Detto, su vane, almeno uno che funziona c'è. E già fa, mi è venuto un colpo di tosse. Ma la mano me l'ha picchiato con il ridotto. Ma c'erano queste partite che facevano le partite a tutti. Poi avete grandi meno. Mi pare che tu vieni a me che sei un dammer. Io ho detto, mi pare che lo dai a me che sei un dammer. Non c'è il posto, ma la sorte, c'è il posto per il microfono solo a mano, palmare. Il dammer lo potrei mettere giù, spostare la stazione, mettere il dammer col coso, ma dovrei fare un casino di spostamento. Cosa? Sì che ce l'ho. E bisogna lasciare i matrici attacchi, Giampa. Io ce li attacchi per, già pronti per il Galaxy, capisci? Se è lo stesso attacco del Galaxy, va bene. Ah sì, così sì. A me ti dico anche che me l'ha venduto lo Shura. Stefano Principe Azzurro. Non da vanno, da un bel tempo mi ha dato. Poi l'ho tutto quanto ristrutturato, pulito, fatto, io. Non me l'ha dato così come te, no. Era, diciamo, un po' scolorito, infatti ho tutto riverniciato bene, tutto tanto. Sembra nuovo. Poi la c'è detto un ciao a tutti, avanti. Ah, ciao. Bello, beh, fai la brava. Ma mi sa che anche stanotte avrete la neve del capodottore, sì. Quando calma il vento e quando si riprende un po'. Siete a che domani, non è che ci sia la procuratore, ci sta di andare oggi. E io mi sono detto preoccupare di andarci, a domani e oggi. Ho capito, quindi vedi che non sono solo che ancora non sono andato. Ma non ti preoccupare, sai che io non vado proprio. Cittadino, devi fare il tuo compito. Oh, forse sono 10 anni che non vado a portare. Una cosa del genere, dopo 10 anni. Va bene. Che c'era? Gigino. Chi è Sandro? Chi era che ero al telefono? Ehi, ciao Gigi. Allora ho fatto quel martingegno lì a quel microfono lì, ma non va né con e senza. E allora, non fa bene la radio né con quello né con l'altro, senza e con quello. Gappa già. No. Evidentemente proprio la. Diciamo la capo sulla proprio che non li si addice. Io ne ho uno normale qua, uno senza niente, senza la cosa, ce l'ho qua. Ce l'ho il telecom, senza mettergli nulla, ce l'ho qua. Ma se guarda, te lo metto e te lo faccio sentire, però non lo fa, vedi, questo è un altro microfono, quello lo fa già diversa questa radio, se lo metto, mi guarda. Guarda, questo è il teleco normale, senza nulla, vedi un po'. Sì, capore. No, devo ritracciare il microfono del tornado. Il microfono del tornado. Quello forse gli si addice. Andrò, bisogna fare il lavoro, bisogna farlo là dentro, quell'apparato lì, secondo me. Secondo me bisogna farlo là dentro, perché, non so per quale motivo, no. So perché devi andare per forza. Sì, capo, alle fuori che non vuole regolato l'AVC, capito, che magari non sia aperto, magari è a metà e magari vuole aperto, dai, e bisogna vederlo un attimino. No, ti consiglio di non toccare, io toccare nulla, perché quelle sono già tarati giusti, e non toccare nulla perché sennò ti casini tutto, non lo toccare perché li casini. Sì, vabbè, dai. Va bene, facciamo girare la ruota. Gianni, ti sei rimesso? Oh, sa, scusami, ma stavo togliendo il termometro proprio adesso, c'ho la febbre ancora. Allora, fatene bene al caldo, fatene bene al caldo. Ce n'è gente in giro un po' presa da questa questione. Adesso se non si stabilizza un po' il tempo, è un casino. Va bene. Ma ci vediamo. Guardate, non lo so che più stai completo con la febbre peggiore. Vuoi essere più libero possibile con la febbre. Io sto dando un anno 48. C'è la proposta. Anch'io sto dando questo che sto toccando adesso. Sto tornando questo qua. Va bene. Massimiliano, neanche lo rispondo, perché poi se lo rispondo ci esco di traverso. Allora, ho dato anche un garapsicluto, un cavo che non lo vedevo. Abbinato. Ho dato anche un garapsicluto, un cambio di 8.001. Sandro, questo ti piace questo 2001? paga, grazie. Tanto per fatta ci già lui. Ma sei un trance. Faccio compreso, io ero un trance. Faccio compreso che ero un trance. Risponde a me, parecchia frequenza. Forse tu non hai capito una cosa, che non è uno di quei cagnolini che trovi in piazza Colonna Mariano e via Leporo Torres, è un cagnolino serio che vive in un ambiente serio, capito? Non voglio farli fare l'accoppiamento con un anche se confitti gris, se diciamo se è proprio di razza o così via, questo e quest'altro. Viene fuori un canto, un ambiente che vive, con chi vive. Se vive con te, no, ci rinuncio. Allora, una piccola cosa, io non mangio un cane, anzi mangio un bambino che me ne gioco di cane, ma comunque per capirci. Allora, questo cane è di una mia amica, vive permanente dentro casa, l'ha pagato 3.000 euro, e poi se vuole più o meno... 300 euro. Sì, 3.000 euro è possibile, un cane, un pincher, Massimiliano, là. Ma ne manco, l'ha pagato 300-400 euro. Comunque, rispondo io a Sandro, quando lui ha detto che il tuo cane è tuo, sei tuo, ho anch'io, diciamo, una specie di un incrocio tra uno Yorkshire e un passaggio di livello, non so, comunque prima a casa mia. È un ambiente serio, il cane si tiene conto, mangia meglio di me e meglio di molti di gente. Questo cane è tanto di pedigree, comunque lui si sta anche sbagliando anche tu, il pedigree e il cavolo conta 400 euro, che si prende giù, il pedigree solo conta 400. A Sandro, ma tu quando nascono i figli il pedigree lo lasci, lo rilasci a chi lo compra? Sandro, non rispondi, quando tu vendi il cane lo rilasci il pedigree? Un attimo. Ma sai che sta controllando il pedigree al cane, lo sta controllando. Massimino, cerco di risponderti, ma se poi subentro come faccio a risponderti? Un attimino? Ok. Allora ti faccio presente che un pincher, il valore attuale di mercato oggi è 1 con pedigree e tra le 3 alle 4,50, ok? 1 con pedigree, a parte diciamo il suo, come l'autogrida, l'uridi, il che viene registrato, messo sull'orecchio, che adesso non mi viene in mente, ma già mi hai capito che cosa, il nostro, chiaro il nostro perché di mia figlia e così via, è registrato, tanto dei pedigree è registrato, può rilasciare benissimo pedigree. Ecco perché diciamo deve essere di uomo con un madre di uomo in possesso di un pedigree. Sandro, se vuoi ti regalo il mio che c'è l'autogrill. Un attimo, sa, passa 10. Poi anche in meccanica, il più caro dei pincher è il Topo di Praga, si chiama Topo di Praga, che sta dentro la tasca e costa 1500 euro. E boh, non ce ne sono altri cani che contano come quello di quella categoria lì, così piccolo. Comunque, buonasera Roberto, buonasera a tutti, avanti, cambio passo, compro, vendo. Io voglio un cane con autogrill. Allora, ma ovviamente un amico cane è un cane amico. In Oga, all'incrocio di Piantonelle con Vi, abbiamo un semaforo attaccato alle spalle, era un incrocio. Gianluca e macchina a prodotto, c'è anche Gianluca e Roma, con la febbre, il raffreddore, il catarro, tutto c'è.

sì, la foresta è dentro del cronometro, c'è sempre la finata o qualche poliziotto. Chi sa dove la vuole stare? Gli hanno dato il grado di scrutatore pure. Ma come se l'avrebbe a operare un mondo? Alle 10 e mezza sarà. Io che mi tocca fare la fila. Poi leggo il numero mio del seggio, 69. Non c'è nessuno, posso entrare? Mi sono rimasto strano, cioè sono rimasto male, ho detto sì sì, non c'è nessuno, entri, tutto l'altro era pieno. Ma che mi hanno vuoto? Qualcuno nelle altre sedi c'era, ma comunque. Va bene. Via. Quattro l'abbiamo fatto, anche se che poi io ci vuole guardare, va. Io mi dico, ma tu sei giovane, quale ti serve a te? Ma cosa mi segui? Sono la veletta di 20 anni, eppure risultati zero. Non sono risultati, Robert, zero. La magiatura, solo che sono curioso di vedere come va a finire qua, perché tanto più o meno i risultati si immaginano come siano. E voglio capire quella persona che sta parlando tanto, non facciamo nome di chi è, che parla male di tutti, vediamo cosa fa se per caso entra lui. Come Berlusconi passa, al 100%. No. Non ne sono convinto, a meno che non ci siano qualcuno che si è ricreduto su Beppe Grillo, perché io sono convinto che Beppe Grillo sfasci un po' di roba, però più che altro è un voto di protesta, non è un voto di preferenza, perché Grillo sta vedendo un tu leggiti, senti su Wikipedia, leggiti cosa ha combinato Beppe Grillo, lui che parla tanto, ha ammazzato una famiglia di 4 persone, lui, e l'hanno condannata a 14 mesi di carcere per omicidio colposo. È bello che lui si mette a parlare che è uno che è coso, che è stato condannato, non si deve candidare. Poi condoni ai diritti ne sta sempre parlando male, non so quanti condoni ai diritti ha fatto. Di coso con Equitalia, di patteggiamenti, non so cosa ha. Tu leggi tutto quello che ha combinato quello lì, è bello che parlava degli altri, sono uno peggio dell'altro. Ma ci sono famiglie quattro persone. Eia, stavano salendo in una strada che non si poteva fare a Limone, in una zona, tra l'altro una zona militare, lì c'è una strada militare, lui è voluto passare per forza, non si poteva passare, e la macchina stava salendo, c'è caduto un precipizio di 80 metri, lui si è buttato dalla macchina, dati il soccaggio di diretto, padre, madre, sorella e figlia di 9 anni, tutti morti. Vabbè, sono morti, diciamo, di incidente, non è un accento, vabbè. E poi sono rimasti ammazzati lui direttamente. Vabbè, se finché è così, vabbè, è andata così, pazienza, lo so. E poi sono rimasti uccisi lui, con qualche pistola. Vabbè, adesso vediamo. Vediamo cosa fa. Vediamo cosa fa. Guarda, fidati che Berlusconi passa, tu li guardi chi passa. E se non passa vuol dire che, strana la cosa, se non passa lui è molto strano. Che è messa? Hai seguito quella domanda che mi stavi dicendo? Non l'aveva fatto quel ragazzo? Perché ha tentato di buttarci la ragazza, non era così la cosa? Non è come la detta Gianni da Asturia, prima si è andata a ammazzare la bizzina, l'hanno bloccata, è riuscita ad agganciarsi alle ringhiere e poi si è buttato lui, poi come l'hanno recuperato con le cose marinari, si è tornato a Bercuti, io l'avevo salvato in Eva, non vi credi, 18 anni appena compiuti, ma è un patto da legare quello lì. Io ho letto la notizia come l'ho appresa, Roberto, nel primo momento hanno detto che lui si era buttato la nave, non hanno parlato di questa Asturia, hanno detto in seguito quelli. Sì, l'hanno detto loro. Certamente che non fatto, la ragazza ha confessato questa cosa che ho visto, quindi l'hanno arrestato per come si dice? Nominalmente, te lo voglio dire d'impresa. Ma non c'è nessuno qua. È stato omicidio. No, io ho fatto un giro, pensavo che stavo cercando, ma ho anche io girato il canale, non mi ricordo adesso, boh. Poi sono andato al 10, stavo chiamando già le prendi, poi ho detto, 12 euro, ha smesso di coglionare pure io. Invece siamo, guarda bello. Ah, ci sei, sei tornato dal 10. Ho detto, ma ci mi lasci voi? Ti do meno mio che fa l'autogrill, che è meglio, è più quotato. Sono questo tipo, no? Quando stavo, quando ucciso Sandro, dice questo ragazzo che stava chiamando la Fenerbahce, è un ragazzo, è un ragazzo. Comunque, Massimiliano, mi stavo dicendo in radio perché ti costa 1500 euro la coppia, quindi 750 euro l'uno. Sì, ma io lo so, ma io lo so, mi dicevo, questa ragazza che c'ha, dopo la signora, questa ragazza che c'ha questo pincher nano, maschio, non ha dato un amico suo, ha capito? L'ha pagato 600 euro lì, capito? Solo il cane, sempre il pedigree, attenzione, solo il cane, 600 euro. Più o meno, sì, lo conosco, il topo di Praga, sì, sono ancora più piccoli. Non ho fatto anche un buon prezzo perché l'ha preso dall'estero. Sono andato a comprare qua, in San Bruno, in Italia, mi ero dato 2000 euro. Che si pince, scusa nonna, ci vuole la metà vecchia, non pince. È la categoria più piccola delle pince, si chiama topo di Praga. Ed è bellissimo, è che c'è lei che è un po' più lunga del pincher, molto lunga, che ha un po' più in su, ma non piace. L'ha pagata la coppia, l'ha portata proprio lì vicino a Praga praticamente, e l'ha pagata 1500 euro la coppia maschio e femmina, 750 euro l'uno, col pedigree, non con l'autogrill, col pedigree, capite? Basta, niente, volevo dirti questo qua poco fa, che mi stavo facendo la barba lavando la testa e con la radio che c'è in bagno non esce, si sentiva l'acqua e non vi sentivo, allora sono passato qua. Ma che radio è questa? Questo è il 430, perché non ti piace? Ma tu me ne avevi un'altra poco fa? Sì, poco fa c'è proprio il baracchino con il tonne più 3, questo è il 430. Due radio diverse, solo con lui ho sentito una differenza tra una e l'altra. C'è una tesi, sempre una tesi, questo è il 440 mitico, che non ce n'è per nessuno, fin tornando non si faccia. Rubino come ha fatto Sandro della cultura vaccana. Io non ci ricordo un po' di gallino. Vai Sandro, KK. Ok, dai. Buonasera, ciao Roberto, buonasera anche a te, dai. Dì, ok. Va bene, dai signori, io vi devo lasciare. Ce la risentiamo alle prossime. Ok, Massimiliano, dai, ci sentiamo alle prossime, riprendi. Positivo, ok, ciao Sam, buona serata e buona continuazione di giornata. Ciao, con Roberto, per un tratto, riprendi Roberto. Ciao Sam, hai sentito, Morietto se devi fare qualcosa, non lo so. Ok, adesso guarda, non presenti una partita lenta che sta andando in servizio, che è finita a 4-3 rigore. Scusatemi, due minuti mi guardo il prestettino del servizio. No, ciao, la prossima, dai. Ben sentito. Ci sentimo, avanti Gianni, Rubio. Ciao, sa, ci sentiamo. Buonasera. Ciao, Tigre, ci sentiamo alle prossime, KK. Ah, questa la voce è un po'... va meglio oggi, hai visto? Eh sì, va meglio, ma... c'è ancora la febbre. Perché non ti portare lui? Ma ieri era allucinante, cosa? È passata la raucina perché è andata a votare, ha sputtato il rospo. Ah ecco, Massimiliano, l'hai visto tu il video su YouTube di Pino di Anticorpi? Non mi dico una cosa, portami il vitello forte. Adesso vediamo anche qua. E l'altra la sapete di Pistorius. Che anche il fratello è peccato. Che mi hanno sequestrato tutte le protesi perché avevano paura che scappasse. Vero. Allora, così non c'è gambe e non scappa. Che bastardo di sa. Voglio inquinare le prove e poi scappare, ha detto. Lo devo ricordare. Ma è cattuato. Ma se fuori dei brutti si manda più a lungo. Mi pare di aver visto impresso sul monitor del televisore che c'era scritto che anche il fratello di Pistorius si è impiccato. Stanno indagando, mi sembra di Sigia. A me Massimiliano. A me, la giacchita, ma ne ha idea. Dove quello della cosa? Il Cusendi. No, sta piovendo qua. Ah, sta piovendo. Ehi, neve, acqua, voce, non prende più nulla. Stamattina ha cominciato con queste gocce ghiacciate, e infatti a Manuela gli ho detto, secondo me è neve sciolta questa qua. Poi, no, dice acqua, non è neve sciolta. Poi stavamo tornando in macchina, ha cominciato chissà bufera di neve e di vento. Ma come Dio la mandava brutta. Sì, già l'ha fatta, sono levata un po' là. Adesso dobbiamo vedere stanotte se cosa cala. Secondo quello che cala, magari domani mattina avremo mezzo di nuovo. Io a chi tocca, l'ufficio. Tu a più tu non ce l'hai. Passate al 10 però, nel caso il produttore se va a fare qualche prova, devono parlare tra di loro, se la gente mette la balla, passiamo al 10, vai, ci avvengono loro da noi, se no disturbiamo molto, vai. Perché non parliamo noi con il portatore, non c'è nessun problema, non penso che ci siano problemi, ce lo dico. Vabbè, passiamo, non ne vedo il motivo. Rimaniamo qua, non so mai che Gianluca, c'è la gente che sta facendo le prove, Gianluca. Gianluca. Penso che siamo abbastanza affiancati con il produttore, se no non penso ci siano problemi di questo genere. Assolutamente, era per nonna. Per non disturbare, magari servono a fare qualche prova, capito? Tutto qua. Ma i figurati, non è quello il problema. Ci mancherebbe altro. Voglia. Oh, yeah. Luca. E te se va bene. In bagno vedo, ah, è accesso che dopo la finestra, ma mamma mia, congelato. Congelato. Roba. Che casino, mamma e mamma lavoro. Siamo come martedì facciamo bello, se no vedo che andavamo a stessi, che ci sia la nebbia, che ci sia, quello che ci sia già è lo stesso. No, ma non sai che classe state facendo la più del 100%, riportato? Capito, Cilia. Grassi la prova niente, ha riportato la più del 100%. 51 euro però la fa 40 sì, no? 48 anzi. Tira su quella potenza, gatto, tira su quella potenza 30 volte, mamma mia, gatto, di nuovo, lo bomello di nuovo. E c'è un po' più fatto, gatto, non è la Lucia, parita. Adesso si chiama. E gatto, ma guarda, ho detto già nel centro di niente, è più chiara Massimiliano, non lo tenere a 20 fatti, tira a 30, 40, ma cosa pensi se non fa? È più chiara, c'è più spinta di modulazione Massimiliano, non te lo dico perché ti voglio male, ti dico che ti voglio bene, tieni la potenza alta quella radio, che non va di nulla, tu più abbassi la potenza lì più diventa cupa, mi trovo anche Gianni, ma non ho detto niente. E così Massimiliano, te la impasta, te la... così la, diciamo, che si sente più nitida la modulazione. Massimiliano, rimani, sì, tu buona al massimo, come stanno dicendo loro, ti sicuri di mirare la guiluppa già non sei venuta. Poi infatti, vabbè, va, adesso è a 25 watt, to. Va bene, no, sto cercando una radiolina in gamba, tocca, va. Non mi voglio la dimmi, c'è la radio, mi piace. Allora dimmi, dici, bisogna finare. Le portate sono sufficienti, ma quello non lo tocco mai. Stacco il processore, disinserisco il processore, se mi dicono che è troppo alto in banda, in FM, ma non lo tocco mai, mi chiedi, è come che non vi sia. E la potenza è sempre a 30 watt, 30 watt di portante bianca e 50 modulati, 50, 60, quello non è andare così, 30 watt, sono pochi 25. E guarda che spinge meglio e lavora anche meglio il processore. Cos'è che sta dicendo Grassi? Grassi ha riportato la PLC 800. No, caro, sai il problema cos'è? Che se sollevo troppo la potenza, l'alimentatore non ce la fa e quindi la prova fa torna indietro, hai capito? Anche se qua l'unito della radio va in avanti. Allora me la putti ancora, quanto ancora è quell'alimentatore? 25 ampere. Metti 50, se torna indietro vuol dire che è sottoalimentato quell'amperometro, ma lo tiene tutti nudi, se non si abbassa la luce e l'alimentatore spinge bene l'amperometro, non l'ha mai dato, la battery close, non l'amperometro. Devi preoccuparti quando va indietro il voltometro, allora ti sta calando di potenza e 51 ore a destino, adesso che quello qua, 5 ore da lettuglia, hai capito? E poi c'è anche un'altra molto molto bellina che non mi ricordo come cavolo si chiama, 28 euro, vieni, è un quarto d'onda. Un attimo, là, io vado che c'è gente, là, che siamo venuti a trovarci, ci sentiamo dopo. Bacio a Dini, che così mi contagi l'influenza. Mamma mia, faccio una gara. Sono rientrato io. Tre rigori ci sono stati, prima hanno pareggiato al 46esimo nel secondo tempo la, come si chiama, il Torino, poi al 49esimo era finita la partita, è arrivato 5 minuti di recupero, l'altro da segnare un coso, un galero, per fare i conti a autogol. Sì, sì, l'ho visto, io c'ho premio, ne stavo guardando il Cagliari e la Juve, ho visto, e vabbè, quello di Conti, che Conti che ha tirato la fuori aria ha deviato. Comunque c'ha 31 punti, 9 punti, quante partite mancano? Mi pare mancano una decina di partite ancora e le salvo il Cagliari. Il Cagliari si è salvato, c'è lì dove c'è condannato. E lì non gli ha dato la tessera di Mediaset Premium, però era criticoso, criccata, non l'aveva fatto vedere. E vedrai se ne esce anche quello. Gianesci, chi c'è soldi non rimane mai in galera, roba. In galera purtroppo ci rimangono i poveri, capito? Quelli che magari vanno a rubare per mangiare perché non hanno niente per mangiare. E quelli li mettono in galera e non escono più. Invece chi fa queste cose brutte, soprattutto per il mondo del calcio, fra un po' vedrai che ne esce, ti preoccupare. Però che mi fa ridere, ancora l'hanno rubato su video, proprio una persona antipatica, ha fregato 25.000 euro più o meno, si dice, ne hanno speso più di 100.000 per recuperarlo dal Portogallo. Gli diranno dei banchieri e tutta la risaiati che se ne curare miliardi, quelli sono tutti furi. Adesso questo Pistorius, non si sa esattamente come sia successo, però fa il fatto che ha ammazzato una persona, ora fa la fine di quello O.J. Simpson, quell'americano, paga un po' con gli avvocati, sciolgono la giuria, ha detto Gatti, alla fine lo fanno per omicidio colposo, o preintenzionale, e se si subito. Sì, si è già pagato 75.000 euro, e quindi intanto è in attesa del processo dei fuori, e gli dai molto, e vabbè, purtroppo funziona così. Massimiliano alle 30, ma Alessandro è andato via, Gigi, non c'è più nessuno? Oh, c'era un po' di gente, adesso sono tutti spariti, a meno che non si sono abbandonati nella televisione pure loro i coso. Ma si chiama i gol, vabbè, adesso c'è la pubblicità. Ma qua, sto mangiando le patatine io, sono qua. Stavo dicendo che la Ferrari adesso la danno a pagamento, per la Ferrari. A me non mi interessa, ma così c'è un euro ogni volta, ma non faccio quella gentilissima, ma non ne guardo mai io a Ferrari. No, non sono appassionato, io piaccio più la moto, motociclismo, le macchine non mi interessano, io ho un premium calcio e va bene così, e me la fotte nulla, stasera mi guardo il derby e ciccia. Che già, scusa già, tra questo esame erano 4:40 a Sassari. Ambo, sono le 4:02. C'è il numero di telefono, se vuoi lo leggo. Aspetta. No, solo il finale voglio sapere, aspetta, che guardo. C'è scritto, vendo su detto apparato, riallineato da nostro tecnico bolognese, perfetto in tutto, chi volesse MC60, il costo è di 570 euro. Tanto le pagine di MC70, perché l'apparato costa 450, 570, 120 euro per vendere l'MC60, alla faccia. Quanto vuol dire l'MC60, roba? Quanto costa 180 euro dopo me? Se no, perfetto, io ho venduto a 110 euro, ma ho un amico, se no, il costo di un MC60 usato è di 120 euro, perfetto il costo. La radio se è riallineata, se è a posto, se è nuova, è tutto con l'accordatore interno, non si può più dare a 400 euro, 4:40. Sono gli allenatori che stanno cercando 4:40, stanno tornando tutti gli allenatori, vecchie varie analogiche. 4:40, 251 America, questo di Bosciolino, il 940, tutti stanno cercando questo qua, non ho capito perché. Il numero finale comunque è 823, tra. 823, ho capito chi è, capito. Ma cos'è, l'ha levato? Sì. Non sei tu comunque, eh? No, io ne ho venduto anche troppe radio, adesso non vendo più niente. Io ce l'ho uno, me lo tengo fino a quando, ripeto, il marisco funziona. Quando non funziona più, non ne voglio più sapere i 4,40. Basta, no, me ne ha fatti più nulla. Uso lo T50 che è sempre fermo, solo in 40 metri, con un antenna, uso quello come facevo prima. Non lo voglio più sapere, speso troppi soldi con 4,40, ma veramente troppi, non solo io, tantissima altra gente. Quindi è una radio che ormai è passata, che funziona benissimo, sino a quando funziona, quando inizia a creare problemi, buttare via soldi per quella radio non conviene più, capito? Non conviene più. E questo è un affare mondiale, fra. Questo a Padova, e che non voglio dire una soglia, me l'avrei comprato, un 9,40, 570 euro a Padova. 9,40 è una bellissima radio, l'ho avuta, tutta la linea completa l'ho avuta, tutta. Il 9,40, la colonia esterna e il contattore, e quindi praticamente come la T250 per manuale, la T230, che fa da 2 metri un attimo, tra commutatore d'antenna e accorvatore manuale. E poi il largatore spettro, l'SP, adesso non mi ricordo. Tutta la linea completa, c'è anche la foto, ce l'ho qua davanti a me, bellissima linea. Però in AM non va più di, non lo puoi mettere più di 30 watt, altrimenti va negativo, non si può modificare. Una radio che serve solo esclusivamente per parlare in banda laterale, che non ce n'è per nessuno ancora oggi. Che bellissimo, poi vabbè, lo conoscevo come frontale, però sopra c'ha tutti questi cacchio di cursori, una cosa di roba, il calife regolabile, l'FM, il guardia microfono regolabile, c'ha un sacco di tasti in più dietro, ma sulla copertura non lo sapevo. Questo comunque è completo di filtri, questo apparato, 570 euro, comune di Stanghella, in provincia di Padova. Buonasera. Buonasera Claudio, Giovanni da questa parte, e buonasera anche a Roberto. Avanti Claudio. Ciao Giovanni. Ciao Gianni, buonasera, ben sentito. Stiamo andando avanti Roberto, io 5 minuti vado a fare una cosa in cucina e poi ritorno, visto che sei entrato anche tu, così fai compagnia a Roberto e a Luca 10 minuti, 5 minuti. Sì, Roberto, sono della radio, però ti ripeto, per fare ciò che a noi serve sono radio inutili, non fa. Io ti ripeto, questa continua a usarla sino a quando funziona, perché è nuova esteticamente, anche internamente, l'avevo fatta anche io revisionare, ho fatto la modifica per la regolazione dell'FM, perché non ce l'aveva, e della banda laterale, quindi è regolabile sia in AM, FM, banda laterale, eccetera. Fino a quando funziona, quando non funziona più, Rubiglio si va per la mondezza. Gianni, ho due calze dentro l'armadio che non funzionano, pezzi di cambio, questo sarà il terzo. Le prendi per Giovanni Ditteri, 2 minuti bianco per me, arrivo subito. Allora va, ben sentito, questo è lo stesso, non bello affare, questo sempre a Pavia, TS440, bellissimo, funzionale, le fotografie è perfetto, c'è anche la parte posteriore, si vede nuovissimo, vedo bellissimo TS440, funzionante perfetto, con due microfoni, palmari e manuale, allora, però non ho accordato, senza accordato non te ne ha fatto nulla, 320 euro, questo è un affarone. Ciao Giova! Ciao Lu, buonasera, e che combini? Ah, siamo qua. Aspetta un attimino. Ok. È sempre una spesa, là, e qua, boom, bam, bimbo. Sempre soldi. Adesso vediamo un po' se riusciamo, per questo benedetto 4,40, però io me lo metto a posto sull'antenna. E questa volta lo faccio salire, smontarla, cambiare il palo, e poi vedrò un po' l'estate, mi sa che l'estate non le volevo più, sai che devo staccare e cambiarle, però me lo devo far costruire robe tipo quelle, no? Però pago, ovviamente che me le fa, pago tipo quelle, però fate come Dio comanda, le belle, come si chiama, quelle dove infili il tubo, quello è un bel largo di lusso, con i bulloni adatti in acciaio. Infatti quelli che ci sono, se ne sono tutti avviciniti, non so neanche se ne mollano. Sì, dunque una domanda, ma tu c'hai anche l'antenna LLV attaccata vicino all'antenna tu? Sì. Funziona con l'antenna? Come funziona? Non dico rende, come rendimento? A voglia. Rende come? A voglia. Tu contiamo dottoressa in FM, ma in V arriva V, vabbè, una frequenza, diciamo, piatta, molto che passa di 9,20. No, una per le gomme la voglio mettere io di antenna per la ricezione, perché quella che c'è multibanda non serve a nulla, cioè va bene perché ti fa un sacco di frequenze, però specifica su quel tipo di cose, le bande e i segnali non sono furti, me ne sono accorto, magari va meglio su altre cose, sulla 27 e cose così, però sulla frequenza delle V non ha molta resa, perché è un compromesso. Dai. Ok, già va, raccontami tutto come è andato il lavoro, se l'hai fatto. Ok, infatti ti volevo dire proprio quello. Allora, tutto tiramente bene, ho fatto come hai detto tu, e addirittura l'ultimo per usare con il pezzettino del per usare i cori, me ne hanno fatto due o tre, capito, li avevo preparati, e mettevo 8 cm di vernice, come ti avevo detto, due di catalizzatore e il diluente a piacere, poi mettevo in abbondanza il tessurizzatore, l'ultimo io l'ho messo proprio a tutta andare il tessurizzatore, proprio l'ho caricata bene bene e l'ho fatta, che è un incanto. Sicazione, quando hai fatto il lavoro? Ieri. L'hai sicato bene, l'hai toccato, come è andato? No, non ci sono andato ancora, ma si vedeva che era catalizzato giusto, perché già la prima passata che gli avevo dato hai sicato subito. Tappa. Detto, cioè proprio è stata una cosa abbastanza veloce, la dose era quella, facevo io 2 cm con i 2 cm sempre a metro, colpito con la stecchettina di legna, mi hanno preparato 2 o 3, per un certo tempo, il barattolino di cilindrico, buttavo lì e facevo, ho preso praticamente una bottiglia, l'ho tagliata. La cosa migliore, dai. Ok, vediamo un po' se c'è qualcuno sul 12, se è arrivato, perché c'è un sacco di gente, adesso qualcuno è andato via, qualcuno è rientrato, vediamo 12, riepiloghiamo, Roberto da questa parte, Giovanni da Italy, Claudio, Luca, se c'è qualcun altro che vuole entrare, avanti. Per la segnale mi sembra l'amico Grotti, avanti Antonio, se sei tu. No, tu sì. Chi sei dai due colpi importanti che non stai uscendo? Allora, sono Flavio. Flavio? Quello dei Gelatti? Bella, questo, con questo hai denunciato la tua età, perché se ben ricordi anche Preti era 50 lire la palla e 103. Io l'ho conosciuto a 10 lire la palla per il latte, che sono più vicino di te. Ok, ciao, tanto ben sentito compagnia, non so se l'hai sentito, lo riepilogo, Giovanni Raiti, di Luca Sassari e Claudio, datore di controllo. Saluto a tutti quanti, ero in radioascolto, sono in radioascolto su due frequenze un attimo, mi stavo rilassando. Ciao Giovanni, ciao Luca, ciao anche a Claudio che ho sentito che si è allontanato un attimino. Riprendi Giovanni, con la buonasera da parte mia. Sì, buonasera, ben sentito, tanto. Capito Robè? Comunque niente, ti ringrazio, è stato, diciamo, il suggerimento è stato ottimo, io ripeto, avrei voluto una cosa naturalmente più delicata, però per non stare lì a... ero così, con me è andato bene. E via. Piuttosto sono io che, diciamo, dovrei avere delle maschere apposta, ho messo di quelle mascherine da infermiere, diciamo, ecco, un bel po'. Ho piegato i ferriti, eccetera, però ci vuole la maschera giusta quando si fanno quei lavori. L'abbiamo fatto in una stanza che aveva una finestra sino aperta, appunto fuori dal caseggiato, porta chiusa, ho messo la stufa a infrarossi, il faretto acceso e ho lavorato così. ti abbigliando un po' di vapore. Adesso, con le mascherine che stai facendo tu in carta, tipo carta, però sono solo per le polveri, per la cosa, per gli agenti più di questi acrilici, questi vapori acrilici, sono quelle chiuse completamente, preferibilmente tutta completamente chiuso, o al limite esistono quelli con i carboni attivi, un po' meglio, dai, non traspiri tutto totalmente almeno. Stai attento, va bene, l'hai fatto una volta solo, ma lo stai facendo come operatore fisso, per cui per una volta già non succede nulla, ma se lo fai tante volte stai attento che rischi. Poi la purtroppo va quando ti soffi il naso, ti rendi conto ti trovi tutto il colore dentro le narici. Che la prostata. Non so, io non sono sempre con questi. Sì, lo so, immagino, tu lo fai diversamente, è un'opera da coso, da chiamiamolo da appassionato, non da professionista. Va bene, ok, Antonio Conte, avanti col microfono. C'è d'occhio alla prostata, perché è una malattia purtroppo di settore, è proprio quella, nel senso che a seguito dell'inalazione a livello dell'apparato polmonare di determinati vapori si hanno questo tipo di patologie, ma non è il caso suo, quindi, anche perché una volta vai di intossicazione, niente di più, però bisogna stare sempre attenti. No, ma io non lo posso fare come lavoro. Non lo posso fare come lavoro, io ho la bronchite asmatica, guai a stuzzicarla. Adesso l'ho curata, in questo periodo non ho più nessun tipo di dipendenza nei suoi confronti, quindi la voglio lasciare a cucchia nel cassetto. No, sto bene, è pericolosissima, lasciamo stare tutto. Comunque stavo dicendo, Robè, alla fine le ho dato tre mani. Considerando tutte le altre tre mani, che la vernice è andata bene, c'erano le casse grandi e le piccole, e ho passato tutto alla grande, anche un contenitore addirittura che abbiamo fatto per un ricevitore FM, che ho appunto in miniatura, ci abbiamo messo lì dentro, quindi abbiamo fatto uno chassis MDF sottile, e ho visto che ho fatto tutto, capito? Nei primi colpi qualche cosa mi è scolata, perché non avevo miscelato bene, poi ho iniziato a capire la cosa e in un attimo l'ho messa a punto. Ma bella veramente, va, ti dico che è uscita a buccia d'arancia. Contento, da, almeno c'è una cosa carina. Cosa ci devi mettere? Ma è una cosa esteticamente per abitazione o per esterno, questo tipo di cassa che stai facendo? No, è per abitazione, c'è collegato un finale a valvole che ho fatto ultimamente. Ed è una cosa che addirittura appena che terminiamo tutto dobbiamo fare la cena, ci sono un sacco di gente che viene per vedere appunto la realizzazione sia del finale che del sistema, poi ci fa un TV 42 pollici sopra, siamo già pronti, no? È tutto un assieme. Oh, ed è mio caro amico questo, i guai. No, capito, è una cosa fatta ad hoc, non ci sono problemi, molto belle comunque come tessurizzatore, come lo fa, sembrava plastica la vernice alla fine. Sì, no, se operi come devi operare, vengono dei bei lavori, dai. Ok, avanti Luca, che puoi far girare. Ciao a tu, cosa volevo dire? Ma cosa non c'è più Massimiliano, no? Volevo dire che non ha cosa. Sto pensando ancora al pedigree e pedigrigi, siamo lì, eh. Credo che siano, sto sentendo qualcuno in canale monitor, non so se sia lì. Ah no, Massimiliano Bulldozer stai dicendo tu. No. Massimiliano, per quanto sia non ci può andare. Del resto non so. Va bene. Oh, Giovanni, ascolta una cosettina. Allora, in questo baracchino è stato praticamente è cambiato l'integrato audio, cioè si chiama così integrato audio, i segnali forti, cioè, praticamente riceve malissimo, tutti strappati sono, no? Lo sento tipo Salvatore che ce l'ho proprio di fronte, no? Ma lui attacca l'altra radio, lo sento tutto strappato, ma può essere la storia. Allora è stato sostituito solo il finale audio, ok, e da allora ha fatto questo difetto oppure è stato sanato? No, lo facevo anche prima, 10. Ah no, no, se avete visto il video dei più neanche colpi su YouTube, me l'hai mai visto? Puffi. Sì, sì, l'ho già visto qualche altra volta. Ah vabbè, andava, dava niente, niente a posto. Dai, un saluto che mi devo allontanare. Ciao Luca, Roberto, Gianni di Valitti, non so ancora chi ci sia in ascolto, comunque vi saluto a tutti. Ciao Massimiliano, ben sentito, ci sentiamo. Ciao Massimiliano, alla prossima, dai, ciao ciao. Ciao Massimiliano, ci sentiamo. Avanti Luca. Ciao Massimiliano di nuovo. Ci sentimo. Niente. Allora, lì chiaramente c'è il frontend estratto, lì devi dovresti controllare le medie frequenze di quell'apparato. Luca? Ci scusa che guarda, oh, perdono, perdonami. Sì, sì, le medie frequenze. Sì, esatto, esatto. Esatto, ma lì è stato sto staroccato. Ah, che già non ti scatto, però. Vabbè. No, comunque il macchino va bene, l'abbiamo riallineato Fabrizio in banda, l'ho spostato, no? Però quello che me l'ho pescato è che questo coso che fa, questo, cioè il segnali furti, a secondo, mi guidi roba dietro, roba è forte qua, a secondo che guarda usa, lo sento male. Che livello automatico? Automatic level control, automatic gain control, veramente la GC quello, è tutto per conto suo, per essere esatti. Il gain control, lì dovresti controllare che non ci sia qualche cosa nel rivelatore, lì bisognerebbe vedere. Per me è starato. Ora Massimiliano purtroppo non, Fabrizio non era la controllatina e non ha potuto fare quello che doveva fare, nel senso che non ha fatto il suo lavoro, ecco, però purtroppo ci vogliono altri strumenti a quanto ho capito, non lo so. Comunque lui l'ha provato, da lì non ho fatto nessun problema, non lo so, non era vero. Quello, quel piccolo famoso Smith mi avevi invitato tu qualche anno fa, Giova. E beh. E quel malattino lì è. E sei ancora con lui. Nora buona, Nora buona, Comunque è una cazzata di metterlo a posto, punto e basta. E vabbè. Ancora con lui, finché va bene. Tutti dicono va bene, va bene. No, hai capito, ancora con lui attaccatomi riparandolo. Via, lo Smith va bene. Lo sai che mi sono inchiodato? Ho detto, boh, che strano, questo Smith è inchiodato. Un giorno lo smonto, lo controllo per vedere cosa c'aveva, no? Ovviamente mi stare attento, su a una vittina, l'ho volata di ma poco poco. Va, perfetto, sta sempre andando per la meraviglia, va. Infatti non capisco perché non dovrebbe andare. Vabbè. Dimmi no. Tutto lì. No, Luca. Stavo dicendo. No, che adesso, domani. Non ci siamo andati manco a vederle oggi. Io le ho viste finite, adesso domani, verso le 10:30, dovrei farci un salto. E dovremo vedere un pochettino cosa è venuto fuori. Dovrebbe essere essiccata, iniziamo a montare i componenti, ci sta arrivando altro materiale appunto sempre perché seccasse, poi dovrebbe essere una cosa d'occhio, tutto lì o roba, e comunque ci vuole solo pazienza con le vernici. Ma cos'è, tu mi hai parlato di questi satelliti, c'hai il sub e poi le unità alte separate? No, assolutamente no. Il primo è un Bicono 250, sempre lo stesso progetto, un Bicono 250 con l'altro reflex e poi sopra vi è praticamente il medio basso con il Twitter appunto, se lega in configurazione da pulito e basta. Tutto lì, casa separata, caricata così in casa chiusa, una 5 litri quella. Ma simile a quel progetto che c'hai tu pubblicato? Esattamente, esattamente. E quel sistema di solamente l'amplificatore Williams ho integrato, a posto di essere a pezzi, e lunedì l'hanno sono integrato e quindi per motivi di estetici l'ho raccolto in un mobiletto, appunto l'ha voluto così lui e così io ho fatto il mobiletto fatto a mano ovviamente, sempre il telaio fatto con il fenolico doppia faccia, ramazzo e ciccia, un bellissimo lavoro, tutto fatto con roba militare americana e con componenti Scadoc. Adesso vediamo un po', sentiamo alla fine. No, io l'ho già ascoltato con le mie eccellenze, con questo dovrebbe essere uguale, ho detto quello, ciccia. Ma quando capiterà lo vorrei proprio sentire, dai, magari mi fai sentire i tuoi lavori, vediamo come ti... Ma se no, tre telai, alimentatore, preamplificatore finale, quell'altro che c'è tuo a casa. Sì, beh, quello sono due alimentatori, due finali monofonici, preamplificatore dual mono, collegato appunto con il disaccoppiamento dell'alimentazione, diciamo così a doppio bigrecco. Quello è una perla come realizzato. E vari ingressi appunto sul 3, fatto molto corti i collegamenti al suo interno e via dicendo. E già è una cosa, diciamo così, ben fatta, altrimenti appunto io ho messo anche gli schermi diversi, gli schermi larghi, tipo Fender, tipo quelli che utilizzano i preamplificatori delle chitarre Fender, rossiccio, color rossiccio molto molto belli, io ho messo quelli perché mi piacciono di più e sono più pratici, anche cambio le valvole di ruglio, giusto per provare appunto rendimento eccetera, non sicuramente qualità del suono, ecco, mi dicono certi, mi interessa più che altro farci i cecoli, tutti due, tutto lì. Avanti se c'è Antonio, se c'è ancora, riprenditi il mic. Chi è arrivato qua? Oh, Robè. Dimmi, io. Il mollo che ho, non trovo a fare qua, magari. Saluto anche il Claudio, quando rientra. Ti ascoltiamo, dai. Grazie ancora per il consiglio, ho seguito alla lettera ciò che mi hai detto, mi sono trovato bene. In effetti in una prima mattina avevo qualche titubanza a quel punto, anche perché avevo paura per le bronchi, ma poi niente, sono andato avanti sino a tarda serata e ho visto che ho fatto tutto. Se incappa poi ti mando le foto all'indirizzo di posta elettronica, ok? E così vediamo un po' cosa hai combinato, dai, ok, non c'è problema, dai. Ci sentiamo, buon tutto, buon proseguo di serata, ok, vediamo se qualcuno c'è per i saluti, avanti che vuoi salutare a Giovanni. Sì, Giovanni, scusa che ti ho sentito in lontananza, ciao, buon fine serata, buon tutto, siamo qua, che stavo facendo cosa ai fornelli, ci sentiamo Giovanni. Ciao, proprio per il momento, grazie per essere stato a salutare, ci ascoltiamo, tante belle cose, ciao ciao a tutti. Ciao, sono qua, buona serata, alla prossima, ciao ciao. Eccomi qua. Mi sono risieduto un attimino e Giulietta c'è, mi stavo preparando qualcosa. Chi è entrato nel frattempo? Giovanni è andato via, poi chi è entrato? Il Grob c'era, però è scomparso. Antonio? Sono io, fra. Antonio c'era, si è spostato, era una frequenza. Certo, sto guardando qua adesso questo dei bei annunci, non ero un po' che non entravo, ci sono belle studie. C'è uno qua, per meglio che glielo faccio vedere, Duacchette Marino, lì come ICM 401, poco nuovo, c'è uno lo sta vedendo, ma bello esteticamente, con un display grande, lo conosco anche perché l'ho visto in mano, davvero, questo qua 50 euro a Milano, questo apparato, bello. Il Bulo Claudio. Era quel tipo l'hai fatto comprare la sentito, no? Quello napoletano, cosa hai dato? Certo, blu. Ma il tipo mi aveva fatto comprare la radio, ti ricordi quello che vuoi uno, famoso. Ma ti come hai sentito, Robè? Tipo che l'hai fatto comprare la radio, non ho capito. Certo, ho fatto comprare la radio un tipo tuo, di Napoli, dell'Ovea, ti ricordi quello che vuoi uno. Io ho comprato una radio, io a quello di Napoli ho comprato il coso, il ricevitore, l'ICR 7000 da Napoli. Tu hai fatto comprare a questo tipo, Robè? Ma qua sei ricoglionito, sì. Ah, che hai comprato? comprato tu, pensavo che avessi, sì, quello è lo stesso che ho comprato io, tra me è arrivato, era tutto a posto, me l'avevi fatto vedere. Cazzo, vabbè, a pigliarla, hai sentito, hai sentito, io non ce l'ho più come venduto. E siamo di un tipo di fuori, l'ho messo su questo punto lì, in giro di, neanche una settimana l'ho venduto. Sì, ma era buono, quello era un buon apparato, l'avevo preso anche a buon prezzo, no, quello lì, io quello era molto titubante, ma era napoletano, però questo ci ha comportato troppo bene, non sai quante telefonate ci siamo fatti, parlati, ha detto vieni qua a Napoli, ti ho scritto io, ti invito a cena, perché vogliamo togliere questa cosa contro i napoletani, che tutti ci prendono per truffaldini, il laboratorio è qua, vieni, ti faccio vedere, dai, addirittura, siccome c'era un altro ricevitore, la R3000, ogni tanto dà qualche bizza, quello lì, e che va in titolo, devi spegnere, riaccendere. Ha detto ma te lo faccio gratis, spedisci, ma te lo aggiusto gratis, non ti preoccupare, a me mi piace quando ci sono questi problemi cercare di risolverli, così mi faccio esperienza io, ma a me mi ha trattato benissimo. Ma come è stato? Lui ha detto che era nuovo, però qualche gabbettino c'era, comunque si vedeva che era stata usata la radio, l'avevo spostata da una parte all'altra, no, comunque andava benissimo. Per quel prezzo che è stata pagata, io l'ho venduta, quanto l'ho venduta? 20 euro in più, 30 euro in più, ma chi non viene venduta? Poco di fuori, di non mi ricordo, infatti la domanda arriva al pagamento, ti spedisco la radio, e gli avevo, aspetta, gli avevo fatto, no, non ci avevo guardato niente, anzi, la spedizione avevo pagato. Allora, ho guardato 200, mi sa, non mi ricordo, 200 euro ho preso di spese, se non sbaglio. Infatti lui quando mi sa, mi sembra nuova, non mi serve, ma sì, 200 euro di spese, vabbè, cioè ho preso di spese, scusa. Poi ci ho guadagnato, 30 euro, 20 euro. Io non mi ricordo, quando? Casino, si comprano... Cosa è? La parte era un pochettino, casino, è troppo forte qua, sono a 50 watt modulati, 30 watt di portante. La radio le sta spaccando tutto qua, con cui non ci riuscirei a, io mi confonderei a tenere, forse mai si è abituato qua ad ascoltare le frequenze così consecutive, no? Non ci riuscirei, è tipo come se uno ha computer in audio e non ha programma, non ci riesco, preferisco abbassare il volume perché no, cioè proprio me rincoglionisco. Sono giornate che parlo qua, ho tutte le porte accese, sono tutte spente perché il tempo è brutto, non voglio, però ho le VHF, le VLU sempre accese, capito? Ma non lo tocco mai, questo è sempre regolato così come lo tengo normalmente, vai. Immaginate che mi chiedine è quasi a zero, è tra lo 0 e l'1. Dovete ricoglimento veramente là. Ci incrociamo in mare. Poi sto guardando qua su Facebook, stavo commentando cose di Yuri Sciobello. Ma che cosa c'ha Yuri? No, era di Ostiri, stava prendendo un rimorchio, boh. Non so se mi hai sentito, lavorando qua su eBay annuncio, c'è questo qua che sta vendendo un ICOM ICM401, più piccolino del tuo rimane come apparato, però è nuovo, nuovissima generazione che c'ha display grande digitale, 50 euro, bello, proprio bello esteticamente anche a cosa, infatti da Danilo mi, perché non ti prendi questo? Ma cos'è, base o veicolare? Marino, VHF Marino, bello, di nuova generazione perché c'è nel catalogo ancora questo, veramente bello, della ICOM. E infatti dico, mi, ti birrighi tu e me lo dai a me, e ti dopo l'ho dato Claudio. Ah, Marino sta dicendo, una scena, no, adesso non ne rientro, chiamo il mio collega che ha pensato, ma la faccio portare con la radio, così i miei bambini addormentati. Dai, allora, Mick, che adesso che ce l'ho qua, tanto ce l'ho, quanto mai altro, 15, 20 giorni, allora manco a tenerlo in vetrina nella frazione, perché ne ho un altro, non sono al campo di quelli vecchi vecchi, quello che ho dato, uno l'ho dato a Salvatore Maestrale, che poi ha fatto scambio con Luca, tutto un giudicato, e Luca mi ha dato il Ruiz a me. Ne ho un altro, ma provato tu è più moderna, ti dice dalla somma il campo è un barrasone, però mi sembra che sia 50 watt uno. Il collo 25. Ma se tu decidi di uscire in barca, eccetera, ti do qualche F come cristiano veicolare, monobanda, lo metti a. Non è canalizzato, lo metti nel canale 8 quando esci, 156-400, oppure le 16 già ti volta bella marina e ti usi quello da qui, già non rimane senza qualche F o roba, non ti preoccupare, adesso mi faccio fare quello genero di colui, solo che è nero, c'era questo amico di Castelsacco che glielo avevo dato, che doveva andare a fare un giro in barca, non c'è mai andato, ce l'ha sempre a casa sua, però ti ho detto due voci, la domani con vai a casa e portami qualche F. No, quello lo sai cos'è, anche io ce l'ho i veicolari, ne ho un paio, tutti e due da Kenwood mi sembra, una Lincoln o un altro Kenwood, adesso non me ne ammetto, uno è nuovo ancora col cielo, me l'ha regalato un amico, me ne aveva diversi, me ne ha dato tre, uno Bibanda, anche l'avevo dato in cambio la R3000, avevo aggiunto un paio di 80 euro a Media Globo e me l'avevano mandato, nuovo, quello era nuovo, fiammante, poi c'è un altro col cielo ancora mai usato, se ne va tenuta. Però questo che mi hai dato tu è comodo perché è impostato sulla frequenza del coso, del canalizzato, giri e c'è già impostato le frequenze del bollettino del mare, oppure ti vuoi ascoltare il canale di soccorso, a me già lo sai che mi piace ascoltare, un bel li tengo sempre a disposizione, perché la stessa cosa la posso fare sia con il ricevitore, però devi sempre girare la manopola o le memorie, qua ce l'ha già impostato ed è più comodo. Sì, beh, c'è marino, canalizzato, ma anche quella è uguale. Stessa marca, tutto, però anziché essere bianco e nero, adesso non capire se l'hanno verniciato o che cosa, ma è nuovo comunque anche quello, è abbastanza nuovo, e così se lo vuoi, capito, tutti ti prendi quello nero, magari più bellino a tenere in stazione, dove è quello lì, perché sono tutti fortificati anche quello là. Mi pare, non so se è classificato, non ricordo, però la marca è uguale, stessa marca. Ho guardato su internet, ho cercato, però non sono riuscito a trovarlo per l'apparato lì, questo Lafayette Jonathan si chiama, non c'è niente, l'ho cliccato da tutti i bassi, adesso provo male su qualche altro motore di ricerca se c'è qualcosa. Ma quello che ho trovato io, Lafayette Jonathan si chiama. Sì, c'è il frontalino nero e la carcassa bianca in pratica, ma è bello perché non è la mia, era per dire sul marino non si rovina, perché tutti gli altri per dire veicolari hanno la carcassa in metallo eccetera eccetera. Ma lui c'è anche un HF marino, però c'è il palmare, lui dice che uno dentro la barca così non mi butto a terra le batterie, lo lascio sempre attaccato per emergenza, perché lui va anche fuori, quando va a trainare vanno fuori, per sicurezza è sempre bene averlo appresso. È obbligatorio averlo, sì, anche perché se succede qualcosa vai in mare, di solito i telefoni già prendono, però capita una zona che non prende, chiami per esempio sul canale 8, ci sono sempre i pescherecci e la capitaneria in corso, in ascolto. Se no sul 16 è in automatico, perché purtroppo non c'è più la stazione della radio costiera a Porto Torres, adesso è tutto in automatico direttamente dalla capitaneria, tu chiami sul 16 e c'è un computer che registra la chiamata e la manda automaticamente come SOS di soccorso, capito? Ho sentito qualcuno chiamando Claudio, non è Mondino mi pare, avanti chi chiama Claudio? Io non sento niente, non ho sentito niente, chi è che chiama? Oi, ciao, prima sì, adesso ti ho sentito, poco fa no, però non siamo io Roberto, non so se ti sente Roberto, lo senti a più certo. No, l'ho sentito. sentito di sfuggita a momenti, cioè il QRM lo scavalca. Comunque ho sentito stava chiamando, talmente basso, nulla. Ma quando mi hanno aperto quei palazzi davanti, là, io Buduso ho perso. Adesso infatti quando va giù tempo li metto la direttiva orientata in quella zona lì, cioè, per cercare di guadagnare qualcosa. In verticale la moto però. C'è un altro di chiaro, io stavo facendo su quello che ho dei 10 metri di montarne una in verticale, lo sai, puntata al nord e bassa macchina, niente, capito? Ma vediamo, quando arrivo al tempo bello decido cosa fare, ma non lo condotto me e lascio la tenera 27 boh. Ho messo a posto tutto il parco antenne, c'è anche una antenna per fare. Adesso decidiamo, se cambiamo le cose va bene, se no andiamo con due altre antenne. E ne lascio una sola, ma non frega niente, tanto, per quello che le sto usando. Cappa, vai lui, riprenditela. Stavo alla QRZ.com, vediamo un po'. Registra sicurezza da vediamo un attimo, via proprio. Cioè, stavo una cosa, aspetta. Una cosettina veloce, ma a che cosa c'è Massimiliano? Ma Antonio, qua, ma dove cacchio devo andare? Dove devo cliccare per vedere? Allora, un page, informazioni, chat, moduli, attivazione, sport, volontari di protezione civile, radioamatori, normativa, antenne, normativa, ma cacchio devo guardare qua? Non ho fatto vedere qualche radioamatore. Devi mettere il nome attivo, poi andare su SOAC, PGVO e ti dà il nome attivo. Per esempio se scrivi S12FB, per esempio scrivi S12FB, fai SOAC e ti appare la mia via, l'indirizzo, tutto e ci sarà anche la fotografia che è quella vecchia. S0BFB? Sì. Sì, Shack. Allora, vediamo, puoi essere QRZ, ecco qua. Ma non mi dà, vediamo un po'. Roma, vabbè, tu sei a Sassari, qua Sardegna. Aspetta, ma che cazzo, qua. Canale 486 sezione, di Sassari. Ah, sì, vedi una foto tua adesso. Questa è una nuova, la station. Ma è quella vecchia. Quella vecchia ci manca il 7004, non ci sono più tutti quei baracchini e ci sono due linee valvolari, una della Somma e una della Ricraft. È cambiata totalmente. Cambiata. Infatti Massimiliano mi ha promesso che veniva a sistemare il computer, sto aspettando quando viene Massimiliano se c'è la macchina fotografica, le faccio fare la foto nuova e la faccio aggiornare. Stavo dicendo Cla, abbiamo un amplificatore di braccio di ferro, poi l'avevi messo a posto. A voglia, su in 10 metri mi dà 450 watt a 28 MHz. Il 27 ne va 600, pieni, pilotati con 4 watt e con il Zodiac 50-24, non con questo, con il Zodiac 50-24 il pane più 3, è una pena matta, funziona alla grande, e quello è un bel affare che ho fatto. Vabbè, tu mi hai detto non andavo qua, comunque va bene adesso, poi già era nuovo, no? Ci sono questi qua, no, aspetta, sbagliato. Pensavo non andasse qua, andava via di chissà. Ci sono anche donne? Sì, ma un attimo non me lo ricordo. Boh. No, non andava perché c'era il rinchiolato, ho fatto sostituire le due a Cagliari, ma l'hanno rimandato perfettamente. Tutto a posto. Tutto a posto. Avanti, vabbè, vai per Pinocchetto, forse non ti sente come hai detto. No, non credo che mi ascolti più. Prima ci sentivamo molto meglio, io sentivo Santiago 6, 7, poi quando attaccava anche qualcosa, adesso piccolino, non riesco a capire quello che dice, non so se mi ascolti, Pinocchetto, ti rilancio il mic e poi Claudio fa la ponte, avanti. Io l'ho sentito Roberto, sente un abbasso anche lui. sotto un vero sicuramente ne metterà forte. Va bene, va bene. Tanto la mattina va a lavoro, vado un po'. Se si può, se mi posso muovere, intanto vanno a passare a prendermi. Adesso c'ho l'autista, quindi passano a prendermi. Se vedo che a quell'ora passano, va bene, se no metto a cucare. Bene, vado bene. Ehi, aspetta, Piuce, se mi ascolti adesso, io ti ho sentito bene in questo passaggio, guarda un pochettino, sto sollevando, se no proviamo a passare in FM se magari mi ascolti meglio. Attenzione, 1, 2, 3, prova, Budusos e Coppi, la città di Sassari. Sì, poi più, ho capito. Vabbè, non riesco a decifrare le parole. Ma io più sono con 30 watt e 50 modulati, vai, come sempre. No, questo è rimasto bene. Non c'è un filo di QRM, sta arrivando benissimo, il segnale è quasi 7, la radio è 5 perfetta, avanti Lugarie. C'è quanto vuole entrare? Sono sto ascoltando abbastanza bene il radio di 3, ritornando, però spero che non mi ascolti a me, là. Ma con quanto sta uscendo lui? Non so, con quanto sta uscendo prima? Discretamente riesco a capire quello che sta dicendo. Se vogliamo fare una prova in FM, magari se riusciamo a sentirlo meglio. No, non lo so, poi vuoi passare in FM, Pino? Non so, non puoi passare, rimaniamo qua tutti lì. Non muove niente, rimani qua, dai. Allora, solo per vedere, magari se l'ascolta anche Luca. Io lo sento, riesco a capire quello che sta dicendo poco fa, no, non ci riuscivo. Però purtroppo a me non mi ascolta. Se siete solo voi Pinuccio, di Luca che lo so. E non è una colinetta entrando a Vuduso, c'è una bellissima zona, un bel alta. Però c'erano dei periodi che anch'io lo sentivo basso, ho capito. Adesso invece già lo dico. Cosa hai detto Luca? C'è qualcuno che vuole entrare, chi è? No, aspetta, allora sono io su Ari Sassari e c'è un'antenna dove c'è Vart, di che questa antenna stiamo piazzando? Una direttiva di Walter. Sicuramente sì, chi c'è? Cosa è un traliccio? C'è un traliccio che va attaccato al muro. Sono in tre. E praticamente risulta una direttiva. Più di una. C'è anche una centrale, non so cosa sia. Poi c'è anche una VU. Sì, una direttiva è qua. Perché ti ho detto c'è un computer ancora bloccato, sto aspettando che passi Massimiliano e attraverso che passa in settimana vediamo se me la mette a posto e se no se la biglia è fuori della produttiva mondese. Ma ripeto, il monitor va bene, ti compri un case buono, anche ma anche su internet lo trovi, Windows 7 ti metti 2 giga di RAM e tu vai nella bellezza, ti compri. Se poi lo ti compri, sarà lì compreso nel prezzo, la disco di un grandetto, tipo una 320, da 160 ti va bene, poi del resto non c'è problema, c'ho tutto io, capito, tutti i programmi che ti servono, tutto, no, vedi un po', se ce la fai recuperare, se no guarda su internet, ce ne sono, ti fanno un giro, computer fisso mi sono la lampadura, vai subito punto it e c'è qualche di voi. E adesso vedo un po' se c'è Massimiliano, che vuole anche un it ogni tanto si spegne, mentre l'accendo si spegne da solo, poi si riprende, lo prende a colpi e si accende, è incasinato. Luce, se ti sente basso basso, anche lui ti ascolta basso basso, capito? Radio 3-4 adesso, dai, a Milano potresti abbassato il QRM, però purtroppo, non mi ascolta lui. 3 gradi ci sono, più 3 gradi, però non sta nevicando, nevicherà stanotte sicuramente. E già un po', così è vabbè, ma sicuramente lo mettiamo chiuso lì. si stava nevicando, perché quelli di oltre non ci sono venuti, dovevano giocare con noi alle 9:30 e erano mezzo giunti. Diretto per me per il volo prima, anche perché dice neve. Ma non c'è vero che la torre non c'è uscito. No, perché Roberto ha trovato una venire a giocare stamattina, c'è divertire a giocare qua a Sassari. E non c'è venuta perché dice che c'è la neve. E lì è brutto, brutto. È brutto perché nevica e poi ghiaccio, abbassa molto la temperatura, roba, capito? A sto pinciolo sono a meno 3 gradi, figurati tu, noi siamo a 4 gradi mi pare, 5 gradi, e loro sono a meno 3, immaginati tu. Non c'è una novità a tavolino, dai, sto scherzando. Perché cosa succede quando non ci vengono? E Danilo è andato a giocare. Sì, si sveglia un freddo, si sono messo a farlate, ma ha detto, comunque hanno preso 3-0, con la prima classifica. Vediamo se c'è qualcuno sul 12 che vuole entrare, attento alle canali 12, chi vuole entrare avanti. Cosa ha detto? Sono un numero più certo che è. Sì, che è. Vanni, ciao, buonasera. Non ti posso dire che hai sentito, non ti ho neanche riconosciuto, rispetto alla tua radio che usi solitamente, questa è segnale 5, 5 sì. La radio è bassa, non ti ho quasi riconosciuto, Roberto. Sì, l'ho capito, mi sembra basito da Gigino, che è Urano, da dove stava modulando? Usio. Sei molto basso, però da Usilo, a me dovrebbe arrivare a bomboletta. Cosa ne ascolti di lì a Usilo, Urano? Bassissimo. Sì, Uranio, scusa, non Urano, tu qua stai arrivando intorno al 7 di segnale. Radio bassa 4, ti do di là. Meglio così, dipende dalle aperture. Così, no, perché Usilo qua arriva una bomboletta sbarati, proprio ce l'ho di fronte, non ho nessun ostacolo. Ok, vai Luca, lo ascolti tu a Uranio? Basso, Uranio, mi ascolti? È basso, un basso sì qua, è segnale neanche uno, proprio arrivi su, c'è scritto qua, sì, sulla G mi arrivi, è segnale neanche uno. Comunque, da sta parte Luca, coordinate molto Rosello, Sassari, avanti. Ecco qua. Di Roberto. Tu hai sentito Uranio da Usilo? Sì, ora mettiti un'antenna a sedia, dai, così ti ascoltano tutti bene e non ci sono problemi. Vai, Cla. No, ma guarda che io lo ascolto benissimo, anche come segnale, a volte mi fa anche un'altra, figurati. Adesso perché sta provando qualche altro baracchino, sono qua, mi arriva a segnale 9. Con la sua... con la sua radio, evidentemente sta provando qualche altra radio e quindi è per quello che è calato il segnale, però già arriva bene qua, non sono problemi. Ok, no, considerando che da Usilo può arrivare molto molto più forte. Se hai presente i tiri qua stava arrivando a 9:20 poco fa, cosa? Giovanni. Se ti dico Giovanni arriva quando arrivi tu, con la casa. Vabbè, lui non è cosa era attaccato, perché quello sta parlando di potenze un po' esagerate, c'ha anche cose vicino per aiutarsi. Comunque stava arrivando al segnale di Luca quasi, vabbè Luca arriva più forte, 9, quasi 9:30. Ok, va bene, un'altra chiamata generale sul 12, se c'è qualcuno che vuole entrare nel frattempo avanti. Sono entrato io, buonasera a tutti, di nuovo. Sono liberato del mio spirito. Ehi, ciao Gio. Ciao, scherzo. Uranio io lo sentivo abbastanza bene di radio, strano è roba che voi lo sentite così basso, di radio almeno io lo sentivo abbastanza bene. Ma in cuffie sì, già? No, negativo, perché? Lo sentivo bene, io qua la radio chiara è più bassa rispetto a come lo sento spesso, senza amplificazione, senza niente, la radio per me era bassa, non era 5, potevo darlo al massimo a 3, capito? Arriva meglio di radio Pinuccio a Bocosò che lui la usa. Beh, le dico, nel senso di comprensibile, che si capiscono, si scandiscono bene le parole, quello che voglio dire, non fortissimo. No, per quello sì, sono d'accordo con te, no, pensavo forte, forte no, chiara sì, chiarissima, però non forte, bassa come... una fettola di mano se mi ascolti, ma non penso perché anch'io ti ascolto proprio piccolo, piccolo, piccolo, non so se tu mi stai ascoltando, avanti. Ma senti, sono me, non sto parlando da solo qua, c'è Gianni Giorum, c'è Luca e c'è anche Roberto Di Quadrato, capito? Mangia poco, mi raccomando, un saluto cordiale a tutti, la Pinocchietta al Moro di Budusola, che tornano a mangiare, avanti Roberto. Sì, ciao, Pinocchietta, se mi ascolti, buon tutorial, buona carica. Potrà cambiamo i saluti e le hanno una buona carica anch'io, eh? Avanti, Lucrezia. Riccardo, da parte nostra, io non lo sento qua, lo sai. Niente, dopo vado a mangiare. A proposito, panna agricola, mi sento tutto la vecchia. E alla fine ha fatto, bruh, non l'ho più sentito manco io, intanto mi telefonava prima, adesso bruh, manco mi telefona, già vivo. Chissà che fine ha fatto, o si è fidanzato. Magari. Perché mi sono ricordato? Perché ho chiamato a Luca Lucrezia, come lo chiamava lui. Ma è se c'è andato così, la smette di trombarsi le pecore. No, Stellina è la sua amatissima. Ma lì cosa si fiancheggia? E chiama la ragazza Stellina? La prima volta mi ha detto che hanno sterilizzato questa carne, no? Tutto quanto. Dice che aveva fatto un cane, ce l'ha fatta, ma lo sai che è rimasta in città lo stesso. Poverino. Non ne ha cazzato, bubu. E te mai sicuro che te l'ha sterilizzata, te l'ho preso in giro, te l'ho preso in su, te l'ho sterilizzata. No, sterilizzata, è rimasta in città lo stesso. Ma è sbagliato arrivare, un cane maschio l'ha sterilizzato, la femmina si è dimenticata. Io so che è sceso veramente, praticamente mi stiamo raccontando, ma non ci dare questo di cui suo Agnello gli ha dato il cane pazzo che gli ha dato. Gracias. facendo il pistolino a tiro elastico. A tiro elastico mi porti un babbo. Chi è che sta facendo il pistolino a tiro elastico? Antonio Verde. Raccontatemi, raccontatemi. E come siete fiato di queste cose, Sciappizzo? Sì, fiaco di pistolino, ho fiaco di tiro elastico. Allora, così non mi fa franco, ho fatto ciò, buonasera. Allora, grazie a Mario, ci sentiamo, ha detto Vicente Cusurge, mi ha detto si sta facendo il pistolino a tiro elastico. Con California, e lo vedo spesso da Bricomen. Un giorno ero a fianco a questa persona, ti ripeto, l'ho guardato un paio di volte, non mi diceva niente, a un certo punto lo sento parlare, gli ho detto, cazzo fra, già si è poco cambiato, sempre in palestra e adesso è Biggie Jimson. Guardata. Sì, con la tartaruga, la cosa, al contrario. Ho fatto sempre grosso di spalle, Franco, anche di braccia, adesso sto dimagrendo. No, non palestra Franco, non vanno a palestra Franco, ti vado a guardare la palestra. Spostando quei figli a destra, a sinistra e sa vicini. Allora qua ci ho visto a poco, da qua in zona. E ma tu mi facciamo il baracchino, vai, baracchino che muovi anche qua. Ma comunque scusate l'entrata così di straforo. Saluto Gianni, ciao Claudio e ciao anche a Lucky Luke, se, non so se c'è qualcun altro perché ho appena alzato il volume, era accesa la radio ma non stavo ascoltando. Avanti Gianni, si è ripreso la voce. Ciao. A me non mi hai visto Artù in televisione. Artù. Riappare, poi ci deve fantasmi, sei tu. The Ghost. dimmi, ecco, no, mi dovete scusare, ma mi chiamano al telefono, poi me ne dimentico anche, c'è il baracchino acceso. Ma tu non allenavi una squadra di pulcini? Aveva tutto le categorie. Ti conoscerai anche tale Sandro Cao. Oh. Sì. No, di nome no, e poi chi giocava per te? Sarà che allenava l'allenatore dei portieri. Ah, no, che l'abbia allenato, certo che lo conosco, come allenatore, giocatore pure, sì. E come portiere, lui è stato un portiere pure. No, io pensavo se la traversare anche un ragazzo nei Puccini Sandro Cao, ho detto no, non mi ricordo. Beh, un ufficiale sanitario, mi ha fatto tirocinio, era mio tutor. Pure, sì, adesso non è cosa, quelli che fanno i controlli delle attività tipo bar, chioschi e cose del genere. Bueno, e ristoranti anche. Ripeto, è con lui che una volta sono andato, e dal giorno infatti non ci vado più a mangiare, al ristorante cinese. Io andavo fisso, ogni settimana almeno arrivo dal ristorante cinese. Da quando sono andato a fare il tirocinio con l'ASL, che sono capitato dietro una cucina, ma proprio perché scherzando gli ho detto, ehi, non saranno, mettevamo in giro, non saranno tutti quanti tutti. Dice, ma perché tu dove vai? Io vado in quello di Viale Dante. E in effetti era quello, apparentemente, dalla parte del cliente, il più pulito perché non sentivo odore di fitto. Cazzo, sono entrato dietro le cucine. Ui, mamma mia. Ma guarda, ma neanche molto dai ristoranti cinesi, se Andrea. Non essere razzista, ma hanno livelli di pulizia completamente fuori dalle norme normali. E fratello, il suocero ne aveva uno in un appartamento, una famiglia di cinesi. Quando è entrato l'idraulico, siccome da quella mandati via perché erano mezzo morosi, quando è entrato l'idraulico dice in vita sua lui non ha mai visto una sporcizia dentro le tubature, ha dovuto rifarsi tutto quanto, la cucina e i bagni, di tutto si dava, perché c'erano i tubi cementati dentro gli scarichi. E volevano tutto che se lo sfizza a capire cos'era che bloccava il coso, perché non si è riuscito, alla fine ha dovuto rifare tutto l'impianto idrico a chiari, cementato, di tutto c'era. Quello che prendevano, che mangiavano, buttavano dentro il coso, il lavandino, si è cementata dentro e hanno dovuto rifare. Via. In americano, no? Gli americani lo sai che hanno quella specie di trita tutto, che trita la mondetta, i residui, loro ne buttano ben poco di mondetta, soprattutto quel, diciamo, l'umido, quello che chiamiamo umido, che poi è in sostanza il coso, come si chiama? Quello che non è né materia plastica né tantomeno cartaccia. E lo mettono dentro questa tritacarne che lo smilza, lo fa omogenizzato e dopodiché lo scaricano in tubi, però loro hanno i tubi di una sezione completamente differente da noi. Sì, sì, lo so. Ok, facciamo riprendere a Gianluca, la lontana, avanti Gianluca. Sì, ok, avanti, dai, già sono qua, io ho ripreso, faccio le fisse, dai. Ascoltiamo anche la stazione mobile, non ci sono problemi. Ok, doppio rumo, riprendete il mic. Per un stacchio Super Max, sì. Con la fare tritta io lo sapevo già da quel video, ma a me una volta mi hanno convinto al tuo, perché a me non mi ispirava andare da cinese. E il cugino di mia moglie, che è stato tanti anni a Genova, dice che lui andava molto spesso, lì ce n'era uno che dove andava loro, dice che era buonissima la roba e tutto quanto. Siamo andati quello che c'era l'emiciclo. Andiamo lì. Mi hanno consigliato che cosa prendere, ho preso l'Alemando, poi come si chiama, i volti di primavera, il gelato fritto, queste cose qua di solito che vanno. Beh, fatto sta che sono stato una settimana a mal di pancia, diarrea, che non ripetivo più. Ma io non ti dico, guarda, la prima cosa, appena siamo entrati in cucina, c'era questa bacinella in terra dove c'era questo straccio, è presente lo straccio che serve per asciugare le macchine, quello in daino, ed era lì, immerso in una bacinella d'acqua, tutta pilica, e quindi questo qua lo chiama il capocuoco, gli dice che lì gli fa capire che non poteva stare la bacinella con lo straccio sporco, perché non era igienico. Questo gli fa, no, idratale. Lui dice, no, lo devi spostare, non c'entra niente, non ti capisco, idratale. Alla fine, idratale pesce, idratale. In breve, questo cazzo di coso che aveva messo dentro questa bacinella non era uno straccio di daino, ma era una sugliola che stavano ridrattando, una cosa la dovevi vedere. Non sai mai cosa ti danno da mangiare, che non ti comprendi nulla, e ti fai dire chi sono i voi. Però ti sappi che davano chiuso perché cucina le carni. No, qua, ti dico una cosa. Questa non è vero, nel senso che è vero anche che una volta avevano preso e scongelato un pezzo di carne, avevano dovuto chiamare i veterinari per capire che carne fosse, non l'avevano capito. Però il cane loro lo mangiano al pari di come noi mangiamo il maiale. Loro ad esempio come animale da compagnia tengono il maiale, ma hanno anche una sola razza di cani. Allora non conviene, cioè costa talmente poco e rischiano talmente tanto che non conviene dare servire cane obiettivamente. Però vero è anche che se tu vai al mercato a mezzogiorno, loro sono lì a quell'ora lì, perché i verdurai stanno buttando le rimanenze e le mettono con le cassette a fianco ai cassonetti, e loro il capo, la foglia con cui ti fanno il voltino primavera, tutti quanti hanno tutto pollo, non so cosa, le prendono proprio la verdura dalle cassette che accattano lì dove ci sono i mezzotocchi, piattine e di tutto, e loro a mezzogiorno stanno facendo la spesa gratis in questo modo. Dopodiché è vero anche che i bocconcini è possibile che siano quelli delle scatolette dei cani. Io ho visto filmato su internet, era meglio che non lo vedessi, scaricavano i cani, di tutte le razze, randagi di razza, arrivavano in camion con questi gabbioni, li prendevano con questa pinna enorme per il collo, li scaricavano, li prendevano a colpi di bastone, li ammazzavano così, poi li spogliavano vivi ancora, li spogliavano i cani che gridavano, li mettevano il piede in testa, era una cosa atroce da vedere qua, non una razza solo, ma c'erano bastardini, quelli li utilizzano per fare i colli di pelliccia, non per mangiarseli. Almeno io so che c'è una razza particolare. Tu te lo mangeresti un cucciuccio là? Mamma mia, mi state facendo sentire male solo a sentire queste cose, cazzo. C'erano dei fili con dei gatti, li appendevano lì tipo gli anni, capito? Ma infatti perché li appendevano vivi? Li appendono vivi per evitare di in qualche modo danneggiare la pelliccia. Infatti, se non sbaglio, era quel filmato dove li sbattevano in terra, perché se tu invece li ferisci, oltre che gli buchi la pelliccia, quindi non è più buona, gliela sporchi di sangue. Ma li prendevano tutti i ruggi di tutto, gliene facevano a calci, gli mettevano i piedi sotto la testa, quelli che gridavano e loro li spogliavano mentre erano ancora vivi, guarda, una cosa atroce da vedere, l'avrei fatta all'ora. Oh, raga, dai, io riprendo, ho fatto mia figlia con Mario, me ne vado un po' là e poi vado a cena. Un saluto a tutti i circolari. Se ci siete più tardi diversamente, a domani signori. Ciao Antonio, Gianni, Roberto, Luca, Gianluca e Gianpaolo, un saluto a tutti. Riprendi un po' Anton Faggetto. Anche io sto andando a mangiare, dai. Ciao Claudio, ciao Filippo. Ci sentiamo alle prossime, dai. Riprendi Roberto. Anche io rimango un pochettino, poi vado, che c'è la qualità, ma la volevo vedervi oggi. Ok, buon tutto, vai Gian. Yeah, ciao Claudio, buona cena, stanno anche a cenare, dai, vi sto tutti cordialmente. E ci sentiamo dopo, dai, mangi un bocconcino, una minestrina, perché non lo vedrai mangiare nulla. Ciao Claudio, buona cena, se c'è qualcuno, ok? Ciao ragazzi, a più tardi anche per me. Ciao Gianluccia. Ciao Gianni, scusami se non ti ho rilanciato, perdonami. Buona carica anche a te, dai. Vabbè, ma il derby dov'è? Milano, il derby di Milano, infatti. Ciao Gianlu, buon tutto, dai. Ciao, ciao anche a te, Robe. Gianni, Luca, Claudio, insomma, e quelli sono gli ascolti. Ci sentiamo, state bene. Se ho parlato sopra. Ciao, ma te l'hanno via tu oltre che a Gianluca? Scusa, Roberto, non lo so cosa. No, dico, se sarei io, ci dico così almeno. Devo dire dove c'è la partita. Ok, ci sentiamo, sono tutti i quanti, ciao. Ciao Giampa, ben sentito anche a te, rinnovo i saluti anche a Gianluca. Ciao ciao. Vai a tu. Ciao Gianluca, buona carica, ci sentiamo alle prossime. Ciao Gianpaolo, complimenti, sei arrivato una bomba, come ha detto Claudio, mai è arrivato così forte, tienilo così che sta andando alla grande. Vabbè, ma la partita dove che vai a vedere? Casa mia, dove me la vuoi vedere? Io c'ho Mediaset, ma anche sul computer uno se la guarda se vuole. Ah, in streaming? Io no, io non lo faccio perché ho la tessera di Mediaset, ma guardo lì, non me la faccio nulla, ma volendo posso farla, addirittura c'ho anche altre possibilità, però me la guardo normalmente. Io dicevo possibilità legali, però. Legali, allora illegali, anche se il coso di guardarla su internet siamo al limite della legalità. Purtroppo sai quante persone hanno fregato a proposito di internet, a proposito di poter guardare le cose in streaming? Perché quando hanno dato l'ultima volta il modulo del censimento, c'era anche una domanda dove ti chiedeva realmente se tu avessi la televisione, e chiaramente la maggior parte di quelli che non pagano il canone hanno messo no. Dopodiché c'era la domanda, hai un computer e una connessione internet? Chiaramente i banchi hanno messo sì, e nel momento in cui c'è una connessione internet che ti permette di vedere con un monitor, come può essere il computer, ti permette di vedere in streaming i programmi TV, è come se abbia la televisione, quindi devi pagare quel canone RAI. Vabbè, diciamo c'è stata anche una notazione sulla legge e l'hanno tolta quella legge lì perché la volevano fare per fregare quelli che avevano il computer, però l'hanno tirata via quella legge, te lo dico con certezza perché era anticostituzionale, l'hanno resa quella roba lì. Basta detenere anche, non dico l'apparato, anche l'antenna soltanto, senza avere niente, tu a quel punto devi pagare il canone TV. Io vabbè già lo pago, da quando mi sono sposato l'ho sempre pagato, da quando vivo a casa mia e tanto di più mio padre a casa loro, addirittura lo pagano anche, io pensavo che quelli che erano in pensione non lo pagassero, invece lo pagano tutti, se superi il reddito di un tanto. Capito, già le pensioni sono basse, in più devi dare 100, 103 euro, 133 euro alla litizzetto, ma farà manca, oh yeah. Vabbè, purtroppo sono 113,50, che non è poco, per un pensionato che prende 700 euro di pensione sono un saccaccio di soldi, un settimo dello stipendio, e devono mangiarci con quei soldi lì. Purtroppo c'è troppa concorrenza dalle private, per avere programmi decenti devi acquistare programmi, ci vogliono soldi. La RAI per cercare, questo è il primo anno che è andato in attivo, da qualche anno, di poco, però è andata in attivo, tieni presente la RAI, con questa nuova direzione che c'è stata, perché ogni anno erano sempre al limite del passivo, quest'anno sono riusciti a superare il passivo, dai. Grazie loro. Va bene, dai. Stacco anch'io, Gianni intanto è andato via e sono andati via tutti. Ci sentiamo dopo se coincide, vado a fare carica batteria, Roberto. Buona carica anche a te e buona partita. A dopo, dai. Che cazzo non piace perché bisogna prenderlo, sia a prenderlo o a darlo? A darlo. Oh, io ho giocato, devi sapere che ho giocato sia nella Villier che nell'Audax. Nel Monserrato Calcio, poi cos'altro ho fatto? Giocavo come portiere e nei rinvii dal fondo mi chiamavano, ero il famoso Pede di Francia. O Francia dei Bidi. No, ma dico, la seguo, il calcio lo seguo e non te ne ha fatti nulla. A dirti la verità lo seguo ogni due anni, perché una volta seguo i mondiali e una volta seguo gli europei, dopodiché non mi ne ha fatti nulla. Ah sì, vabbè dai, sei uno dei pochi italiani insieme a Gianni Doppio Rumo che conosciamo qua in rete che non ascoltano e non guardano le partite, dai. Vabbè, diciamo le scelte tue, quella ti piace, la ginnastica artistica o il coso, il bodybuilding? Balletto, ma lo vedi, infatti è così, purtroppo, se non ti piace il calcio o sei broscio, perché è un classico, no? Non piace agli omosessuali oppure alle persone come me che hanno fatto sport individuali, quindi ho fatto arti marziali, karate, tutta una serie di cose dove quando pigli il pugno a faccia poi non è che ti puoi girare al collega e dirgli oh ma la colpa è tua, te la prendi tutta e te la subisci anche. E ero no. Da bambino sì, c'era il periodo di Bruce Lee, tipo lì a fare un acqua, ma non mi hanno mai appassionato, messo l'attività tipo calcio, pallamano, pallavolo, pallacanestro, quegli sport sui nuoto, sci, anche se non l'ho fatto, l'ho provato, il pattinaggio, che ero anche abbastanza bravo, ma di fare cose di colpi no. Ho provato in palestra l'amico di Maciuccu, in palestra la lui ci portava, ha già visto come era andato di pugilata, io ho detto tutti a casa, ma non voleva farmi male. Ma quindi il pattinaggio eri con la mura? No, non ero con nessuno, la mura sta dicendo. la, come si chiamava? Aspetta, ricordami. C'era la mura, no, io non ho fatto cosa agonistico, però ho pensato gente campione sardi, ma dicevo la mia su pattinaggio, perché c'era una tecnica che loro mollavano in curva, io con le volte mettevo io in curva, non mollavo e spingevo, e adesso ho visto già da qualche anno qualcuno con la tecnica la sta utilizzando, perché io in curva dove gli altri mollavano io tiravo, aprivo le gambe. Ma stai dicendo, questa qua quanti anni avrà? Una settantina d'anni adesso? Quanti? La mura. Quanti anni hai detto? 70-80, boh. No, sto parlando di quella. Tu poi stai parlando di un'altra mura, quella di Stella Azzurra, probabilmente è la madre di questa persona che dico io, lo stesso campionessa, insieme a mia cugina, lo stesso, non sono state campionesse sarde, hanno fatto campionati italiani ad altissimi livelli. Probabilmente questa mura che stai dicendo tu era quella della Stella Azzurra di pattinaggio, la società più famosa dell'epoca, degli anni 70, 75, 80, eh? Ma guarda che questa qua faceva anche la scala piccata come pilota. Quello che faceva la scala piccata? Ma c'è un problema di pattinaggio o di scala piccata? Poi c'era proprio una di quelle di maschiacci, ma ti parlo di una donna che io con i miei figli già avranno 45 anni, uno si chiama Giancarlo, guarda che ha una fabbrica di prefabbricati. E è stata una maestra di pattinaggio lì a fianco all'ippodromo Pinna. Probabilmente stanno dicendo la stessa persona, però non sapevo che facesse anche gare in macchina, vabbè, una che fa sport molte volte si adatta a fare un po' di tutto, però che fanno attività automobilistica, donne sulla punta delle dita, le consiglio. Diciamo oggi, ecco un do fai. No, quello lo faccio anch'io, gente con edo, e lo fai esattamente con coso, con Angelo Sanna. Ma con chi? Con Tore? K. E appunto io ho fatto karate e jet kundo. Jet kundo? Cosa hai detto jet kundo? Kundo è l'arte marziale che ha inventato Bruce Lee mutuando e prendendo un po' e speculando su tutte quelle che sono le arti marziali, che però erano molto folcloristiche e poco servivano nella strada. Invece lui le ha sgravate di questo aspetto bello, tutto, che poi non serve a niente perché arrivava il pugile di strada e ti gonfiava di botte. Quindi lui ha preso un po' dallo judo, un po' dal karate, un po' dal taekwondo, ne ha unito una cosa, ha fatto una serie di tecniche, ha unito una serie di tecniche e ha tolto fuori questa arte marziale, diciamo, che serve perché va di anticipo, è un po' particolare. Anche perché lui diceva che non puoi prevedere l'esito di uno scontro già dall'inizio, ma devi, quindi non puoi metterti nella condizione di rimanere arenato a determinate tecniche, bensì a seconda di come ti metti, della situazione in cui ti trovi, ti devi adeguare, al pari di, lui diceva questo, al pari dell'acqua che tu metti in un contenitore, ne devi prendere la forma. No, vabbè, non sono preparato in materia, sicuramente sarà fatto Bruce Lee, sicuramente uno di quelli che ne sapeva abbastanza su quelle arti, sulle arti marziali, uno che diceva la sua. Comunque un bel gruppo di cricco dato alla spalla e da dietro, già non c'è arte marziale che tenga. Boh, vogliamo parlare della cosa, della pittura. Guarda, la palla, quando un uomo con la pistola incontra un uomo che fa karate, l'uomo che fa karate è morto. Questo qua è mutuato dal film, che cos'era? Quello però era l'uomo col fucile, con l'uomo con la pistola. Era attentissimo, quando un uomo con la pistola incontra un uomo col fucile è un uomo morto. Forse lo diceva Franco Facchio e Ciccio Grassia, quando un uomo incontra con la pistola incontra uno col adesso c'era la parodia, avevano fatto di coso, di quel film Franco Facchio e Ciccio Grassia. Non l'hai vista la moglie del figlio di Grassia? Morta avanti ieri, in parte così secco, era al ristorante. Il figlio di chi? Di Grassia? Prendete che fa l'attore. È morto. Morta la moglie, il ristorante, secca così, tum, in parte. Certo, già ne stanno morendo un po' casi, gente. Ok, vediamo se Eugenio ci dona la sua presenza, avanti così. Sento un bel male, però sembra che sia dentro una stanza da bagno con le pareti riflettenti, si sente un bel riverbero. Cavaniro. Va bene. Roger, tu sei appena entrato, noi ce ne stiamo appena andando, perché io adesso mangio qualche cosa e poi mi guardo la partita. Idem anche Antonio Grode, gli altri sono entrati lo stesso a mangiare qualcosa, c'era Gianpaolo, c'era Gianluca, c'era Claudio, che anche lui però si guarda la partita, un po' di gente c'era poco fa, c'era del doppio rumo che probabilmente rientrano. Io vi saluto tutti, ok, per me cambio stanza adesso, dai, vado nella stanza della mangiatoia, se me ne danno sempre. Di nuovo Gianluca, ben sentito, alle prossimine, buona giornata e buona serata, buona giornata per domani, e mi compattate anche l'amico Grotte. Avanti a tu. Affa, lo stesso per me, da parte mia, vado a fare un po' di carica batteria. Ciao Roberto, buona partita, come detto, ciao Eugenio, ci sentiamo dopo se coincide, ciao anche a Luca, che non so se sia rimasto errato, dai. Quel Rex per me non riprendo, ciao. Vai, dimmi. Ma guarda che c'è un filtro che devi mettere sul positivo, che trovi o alla GPC, cioè o in farmacia, oppure da Fusaro costa molto di meno, e ti risolve leggermente il problema delle accelerate, ma l'importante è che non siano radiofrequenze che ti stanno entrando dall'antenna e dall'alimentazione. Se c'è una specie di bobina, costa pochi euro e ti risolve quel problema. Adesso dovrebbe essere questo il problema, prova un attimino a mettergli questo filtro sul positivo, costa, mi sembra, 5 euro, 6 euro, ce n'è un, dovrebbe essere una specie di avvolgimento, un tiroide, ti risolve il problema. È lo stesso che si usa per gli autoradi, quando hai quel problema lì che in accelerata te lo ritrovi sulle casse. Prova un attimino, dovrebbe costare davvero pochi euro. Dai, ti lascio, ci sentiamo dopo. Ciao ciao. Ciao a tutti, sono rientrato, ciao a tutti. Sì, capo di Roger, tutto bene, ciao Eugenio, ciao Roberto, ciao Antonio, mi sembra che stanno andando a fare carica, perfetto, io ho finito adesso, una parola di bene alla IACA, almeno è mezzo giro di vacca, sta chiamando la vacca attaccata a burro, ho preso, quindi posso meglio io, no, uno in tre non ne posso, mezzo giro. Sì, ti sento benissimo, non c'è problema, forse è chiaro. C'è la partita? Ah ecco, no, almeno mi carezza, ma sta con la televisione, ma vedo un film, va. No, Gianluca, mi fa piacere, ci sentiamo, ciao. E ok, perfetto, ciao Gianluca, a presto. In caso sono arrivato ai punti, dai, ciao. Ok, ma stai salendo? No, sto salendo. Ok, guarda, ti ascolto bene, non ti preoccupare, sento sempre bene.